Bam bam biram bam bam biram una volta bam, al mese. Bam bam biram bam bam biram tu ti senti bam, così bam biram bam bam biram andate a masturbare bam biram bam. Una chance c'è per te che sei in astinenza, cerchi qui cerchi lì, inizi lunedì, non ti vogliono fare, e allora cosa fare? Ascolta la tua Jerry. C'è un bel posto lì in quel boschetto, entra lì anche tu che vuoi il seghetto, tutti lì gli arrabati si radunano, entra e le mani usa, con la destra te lo tiri fuori e poi sinistra te lo tocchi e tu godi ancora, avanti e dietro il tuo cazzo nel boschetto godrà. Che posto è masturbia, con le mani tutti a masturbia, il cazzo prende aria a masturbia, un seghetto tu ti fai a masturbia, masturbia. Bam bam biram bam bam biram bam, bam bam biram bam bam biram bam, bam bam biram bam bam biram bam, bam bam biram bam bam biram bam. Ha aperto tutto l'anno, tesoro stai tranquillo, gratis puoi entrare, m'aiuto i poveretti, divani e kleenex li tu trovi, non ti devi preoccupare. C'è un bel posto lì in quel boschetto, entra lì anche tu che vuoi il seghetto, tutti lì gli arrabati si radunano, entra e le mani usa, con la destra te lo tiri te lo fuori tiri e poi fuori sinistra te lo tocchi e tu godi ancora, avanti e dietro il tuo cazzo nel boschetto godrà. Che posto è masturbia, con le mani tutti a masturbia, il cazzo prende aria a masturbia, un seghetto tu ti fai a masturbia, masturbia. Bam bam biram bam bam biram bam, bam bam biram bam bam biram bam, bam bam biram bam bam biram bam, bam bam biram. Cerchi qui e cerchi lì, inizi lunedì, con la destra te lo tiri fuori e poi sinistra te lo tocchi e tu godi ancora, avanti e dietro il tuo cazzo nel boschetto godrà. Che posto è masturbia, con le mani tutti a masturbia, il cazzo prende aria masturbia, un seghetto tu ti fai masturbia, masturbia. Mariranda, bamba bariranda.